in primo piano. Anche se chiaramente è Haiti che tiene banco come titoli di apertura, anche perché cominciano con difficoltà ad arrivare gli inviati dei giornali internazionali nel paese dilaniato dal terremoto, e dunque cominciano i primi reportage davvero molto molto impressionanti. L'urlo di Haiti, venite a salvarci, così titola il Corriere della Sera in apertura. Haiti nel caos, arrivano i Marines per Repubblica. Haiti, migliaia in fuga dall'inferno, per La Stampa, che tra l'altro va sottolineato è riuscita per prima, insomma, con il suo inviato corrispondente dagli Stati Uniti, Maurizio Molinari, che racconta anche come in maniera davvero avventurosa, affittando un charter, è riuscito proprio il primo giorno, dopo poche ore, ad arrivare nella capitale haitiana, e che oggi appunto ancora fa un reportage. Aiutiamoli, questo è il titolo del quotidiano nazionale. Vivi sotto le macerie, fate presto, così titola il Messaggero. Questi titoli dedicati ad Haiti. Poi vedremo le altre aperture dei giornali, ma insomma, come detto, sono i reportage in alcuni casi di alcuni giornalisti, in alcuni casi invece ci si appoggia al personale che è lì, come fa Repubblica, che raccoglie la testimonianza di Stefano Zannini, che è il capo missione di Medici Senza Frontiere ad Haiti, e che scrive: dall'alto della città vedo atterrare i primi aerei, una scia lunga di velivoli che si allinea verso la pista, arriva di tutto, volontari, medici, chirurghi e poi materiale sanitario, scorte di acqua e cibo. È tornato il sole, i raggi che riscaldano dopo una notte di pioggia aiutano. Inizia così il suo reportage e poi parla insomma delle tante vittime, dei cadaveri, dei morti, ma ci sono anche le foto che, come ripeto, da ieri parlano forse più delle parole e raccontano più delle parole. Le foto di, per esempio, quella in prima pagina della Stampa è impressionante, c'è una fila di cadaveri per terra così buttati senza alcun ordine, e un uomo che cerca di farsi strada tra l'uno e gli altri, evitando, con l'ultimo senso di pietà ovviamente, di calpestarli, cercando di trovare una sua strada per attraversare chissà cosa, per raggiungere quale posto non si sa. Un sopravvissuto si fa strada tra i cadaveri ammassati davanti all'ospedale. Questa è la didascalia davvero impressionante. Come impressionante è anche il reportage di Maurizio Molinari, come detto, il primo degli inviati italiani raggiunto, che è arrivato a Port-au-Prince, e che scrive: la legge del macete nelle vie di Port-au-Prince. Bande di giovani armati di macete spadroneggiano nella Route 1. Il cuore del centro commerciale ridotto a un ammasso di macerie, disseminato di corpi senza vita, teatro di saccheggi e sequestri. A 48 ore dal terremoto che ha sconvolto Haiti, la violenza si manifesta senza freni a pochi isolati di distanza dal palazzo presidenziale, con la scalinata centrale franata e dai ministeri in macerie. Chi ha un macete lo usa per impossessarsi di ciò che serve o vale: acqua, cibo, carburante, televisori, sedie, denaro. Le gang sono composte di gruppi di 6-8 giovani, tutti adolescenti, col viso coperto da fazzoletti per proteggersi dall'odore dei cadaveri e dalla polvere delle macerie. Questo è l'altro problema dei problemi, cioè i cosiddetti sciacalli, insomma, già in un paese dove, come ricorda anche oggi Massimo Gramellini sulla Stampa, si viveva o si vive con meno di un dollaro al giorno, con un'aspettativa di vita di 50 anni, con un paese in cui un bambino su tre non raggiunge i 5 anni, un paese già tra i più poveri del mondo, colpito in maniera così terribile. Ovviamente già la violenza era ad alti livelli, ora, come scrive Maurizio Molinari, insomma, è la legge del più forte, chi ha un macete lo usa. Davvero un'immagine impressionante. Ovviamente c'è molta preoccupazione, come abbiamo detto e come seguiamo, anche per i nostri connazionali. La Farnesina ha contattato 120 italiani, ma si cerca tra le macerie degli alberghi, i dispersi sarebbero alcune decine. C'è da dire che il Messaggero, in un racconto che fa Margaret Porpiglia, che immagino sia parente di Mimmo Porpiglia, che fa un altro resoconto dalla capitale. Mimmo Porpiglia è stato un console onorario ad Haiti. Ebbene, Margaret Porpiglia, in questo lungo racconto da Port-au-Prince, praticamente certifica già quale sia la prima vittima italiana, perché racconta la storia di Gigliola Martino, 70 anni, nata lì ad Haiti da genitori italiani. È la prima vittima italiana del tremendo terremoto che ha distrutto Haiti. È morta nell'unico ospedale della capitale sfuggito al sisma. Il figlio Riccardo Vitello e il cugino Leone Vitello erano corsi da lei a Bourdon, il quartiere residenziale che confina con Pétionville, abitato prevalentemente da italiani e diventato oggi un cumulo di macerie. Ebbene, Gigliola Martino, racconta Margaret Porpiglia, è morta, viveva da sola con due persone di servizio, una badante e un garzone. Siamo scappati subito da lei, viviamo vicini, il nostro primo pensiero è stato quello di raggiungerla, racconta tra i singhiozzi Riccardo, commerciante, vale a dire il figlio. Arrivati sul posto, abbiamo cominciato a chiamarla e solo dopo numerosi tentativi abbiamo sentito la sua voce, un sollievo. Era sotto le macerie, in prossimità della porta, stava scappando quando il tetto è crollato. Abbiamo cominciato a scavare con bastoni, pale, con le mani. Le sue condizioni alla fine, l'abbiamo tirata fuori, erano gravissime. Aveva perso un braccio, la gamba destra era dilaniata, l'abbiamo portata subito all'ospedale, ma non ce l'ha fatta. E dunque, con la testimonianza diretta del figlio, e evidentemente si certifica che appunto questa signora Gigliola Martino, 70 anni, è di fatto la prima vittima accertata tra i nostri connazionali. Come detto, lasciamo questo tema perché, ripeto, se anche oggi prenderete qualsiasi quotidiano troverete davvero, davvero tanti commenti, tante opinioni, tante fotografie, ripeto, che parlano molto chiaramente di quella che è la devastazione. Ne parleremo tra l'altro alle 8:15 in Soldi e dintorni con la nostra Deborah Rosciani, che farà un po' il punto di tutte le attività che si sono messe in moto per cercare di aiutare, insomma, tutta la macchina di solidarietà che anche dall'Italia può aiutare la popolazione haitiana. Dunque alle 8:15 parleremo e vi spiegheremo come potrete aiutare concretamente la popolazione haitiana. Veniamo all'Italia e alla politica. Ieri c'è stato l'incontro tra Berlusconi e Fini, un incontro che come al solito viene dipinto dai giornali in due modi, le dichiarazioni ufficiali e i retroscena. Le dichiarazioni ufficiali sono di una tregua, sostanzialmente, ci siamo visti, va tutto abbastanza bene, un confronto abbastanza tranquillo. I retroscena, devo dire, da tutti i giornali sono invece di altro tenore. Silvio, io lavoro con te, non per te. Così avrebbe detto Fini, secondo Repubblica. Non lo so neanch'io com'è andata. Scuro in volto, Silvio Berlusconi lascia Montecitorio col morale sotto i tacchi. Silvio, non puoi andare avanti così, gli avrebbe detto Fini. Il partito lo convochi a cose fatte, al governo decidi da solo o insieme alla Lega. È così su tutto. Tanto che anche per gli altri giornali, addirittura per l'Unità, è stato un vertice con urla, nervi tesi e parole grosse. Ma vediamo anche come lo legge il giornale, che come al solito è più interessante nei rapporti Berlusconi-Fini, visto che è vicino politicamente a Berlusconi, mica a Fini. I metodi della Prima Repubblica, scrive Vittorio Feltri, buttati fuori dalla porta, stanno rientrando nella finestra. Questo è l'editoriale sotto il titolo d'apertura di prima pagina, Fini Berlusconi, prove di dialogo. Ma sentite che dice Feltri. Volendo sintetizzare quanto di concreto è accaduto, o meglio, non è accaduto durante il pranzo, possiamo risparmiare inchiostro e usare una parola. Zero. Dopodiché esprimiamo un augurio. Chissà che a forza di incomprensioni i duellanti decidano per stanchezza di accettarsi e di deporre le armi. Ma anche ad Alberto Signore, nel resoconto del Faccia a Faccia, titola così: lo sfogo di Silvio, pure la ramanzina, come dire, pure la ramanzina mi sono sentito fare da Fini, che mi dice convochi il partito a cose fatte, non mi consulti, eccetera. Con lui, cioè con Fini, avrebbe detto Berlusconi, ci vuole la pazienza di Giobbe. E dunque a dire che la situazione non è certo delle più rose, questo secondo i resoconti. Anche Libero punta a Giobbe, insomma, tregua fino alle regionali, ma Addirittura titola il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro a pagina 6 e 7 parlando dell'incontro: salutare rissa tra Fini e il Cavaliere. Addirittura si parla di rissa, con il resoconto da parte di Berlusconi: Silvio sbuffa per due ore, che pazienza ci vuole, tra virgolette, o puntini puntini con Fini. L'altro tema politico che ancora trova spazio sui giornali è quello dell'economia e dell'economia e giustizia, insomma le riforme. L'Unità mette in prima pagina addirittura un Berlusconi dipinto con il naso da Pinocchio, insomma un impegno concreto, meno tasse per tutti, il naso di Pinocchio ovviamente, come dire, è una menzogna, senza pudore, questo è il titolo dell'Unità. Per quel che riguarda le riforme e la riforma fiscale, c'è da dire che anche oggi Libero, l'aveva iniziato ieri e oggi prosegue nella pubblicazione delle 1800 gabelle di Stato, no? Sapete che Libero, come il giornale, ieri ha detto: ma no, Berlusconi, avevi detto questa cosa delle tasse, adesso non puoi fare marcia indietro. E allora Libero ha iniziato questa inchiesta firma Franco Bechis a dire: vi pubblichiamo la previsione delle entrate nel 2010 del Ministero del Tesoro, voce per voce, tutte le tasse che paghiamo. Oggi ce ne sono altre, credo, un centinaio, no? Hanno iniziato ieri, oggi Franco Bechis inizia il suo articolo così: pagina 7 del programma elettorale 2008 del Popolo della Libertà, obiettivo sulla famiglia, meno tasse. Punto 3, abolizione della tassa sulle successioni e sulle donazioni reintrodotte dal governo Prodi. Ma, scrive Libero, quella tassa c'è ancora, avevano promesso di abolirla ma c'è ancora. Che cosa comporta di entrate al fisco? 360 milioni di euro, questa è la previsione del 2010. Ma poi ecco altro un elenco sulle tasse automobilistiche, i diritti catastali e di scritturato, il diritto di immagazzinaggio alle dogane, il diritto, le tasse riscosse ai confini su stranieri senza visto consolare, la quota erariale delle copie duplicate di giustizia, insomma ce ne sono un altro centinaio, alcune voci anche un po' bizzarre. Contra l'altro, un'intervista a Mario Baldassarri, economista vicino a Fini, il cui titolo è così: se non taglia ora le tasse, Tremonti è fuori dal nostro partito. Insomma, una frase molto molto forte. Baldassarri non è la prima volta che duella sulla questione economica con Tremonti. Dice innanzitutto l'economista: pensare che chi vuole meno tasse vuole più deficit è un equivoco, tagliare le imposte significa tagliare la spesa, altrimenti ci prendiamo solo in giro. E poi ecco qui l'accusa in questa intervista a Libero: se non vuole ridurre le tasse Tremonti e tagliare la spesa, è lui che si pone fuori dal PDL. Ma perché secondo lei il ministro è così irremovibile? Chiede Sandro Iacometti. Tremonti ha il terrore, giustamente, dei saldi da finanziare. Ma come dicevo prima, per riformare il fisco ci vuole prudenza e coraggio, dice Mario Baldassarri. Insomma, questo è il tema fiscale, mentre l'altro tema, quello della giustizia, prende due aspetti, sia quello del processo breve, reso conti, insomma si parla, poi c'è anche il CSM che ha aperto una pratica perché Berlusconi ha detto la frase di ieri: alcuni PM sono come, fanno delle aggressioni peggio di quelle di Piazza del Duomo. C'è un resoconto dell'Unità, ma è sul processo breve, dal titolo: nove parole per salvare Castelli ma anche il sindaco Moratti. Di che si tratta? Claudia Fusani scrive questo: mica solo Berlusconi, già che il processo breve viene allargato a dismisura nella sua applicazione. Tra gli ultimi possibili beneficiari delle nuove norme ci sarebbero anche il sindaco di Milano Letizia Moratti e il viceministro alle infrastrutture Castelli. Cioè, secondo la denuncia tra l'altro di Ligotti, senatore dell'Italia dei Valori, con questo nuovo processo breve che introduce la ragionevole durata del giudizio davanti alla Corte dei Conti, verrebbero eliminati i guai contabili dell'inchiesta sulle assunzioni facili al Comune di Milano, dunque del sindaco Moratti. E poi anche una faccenda da sanare, secondo Claudia Fusani, sarebbe un regalo di 100.000 euro all'ex ministro della giustizia Castelli, che ha una faccenda che risale a 5 quando era ministro, appunto. Fu accusato di aver sprecato denaro pubblico offrendo consulenze esterne e trattative a trattativa privata, società nate apposta per vincere quella gara e senza avere alcuna professionalità. Secondo l'Unità, il nuovo processo breve, diciamo, sarebbe un colpo di spugna anche per questi per queste indagini della Corte dei Conti. Il titolo di apertura del Fatto Quotidiano, c'è la foto di Augusto Minzolini, il direttore del TG1, il titolo: TG1, lui lo ha ridotto così. Notizie poche, apologia del capo e di Craxi, latitante, attacco ai giudici. Perché cito il titolo di prima pagina del Fatto? Perché comunque parla, prende spunto dall'ultimo editoriale che ha fatto discutere su Bettino Craxi. E questo è anche il tema del nostro sondaggio. Vi vogliamo chiedere se, come ha detto Minzolini, Craxi fu uno statista mandato alla ghigliottina. Condividete questa lettura? Oggi c'è molto ancora della cosiddetta Craxeide, cosiddetta da me, insomma. Spunta il Craxi anti Pinochet, per esempio, un'intera pagina sulla Stampa. Ieri c'è stata la proiezione di un film che tra l'altro oggi viene allegato e venduto con Panorama, fatto questo film con interviste anche inedite, un po' anticipato, fatto da Luca Iosi, che è sostanzialmente un suo ex collaboratore, diciamo, socialista, e che si capisce da questo film che, tra l'altro, una cosa inedita, alcuni dei soldi e dei finanziamenti del partito, racconta Bettino Craxi, andarono all'OLP, vale a dire all'organizzazione di Arafat, a movimenti dell'America Latina, persino ai somali contro gli eritrei. Beh, insomma, dice Craxi, andò una parte di questi finanziamenti a movimenti e personalità che lottavano per la libertà, ma certo non utilizzavamo la Banca d'Italia per trasmettere loro del denaro, non è che veniva emessa regolare fattura. Ecco qui il titolo: spunta il Craxi anti Pinochet. C'è sul Fatto invece un articolo sui lingotti svizzeri di Craxi, firma Gianni Barbacetto. Gianni Barbacetto che sarà nostro ospite alle 8:30 insieme a Gianni De Michelis. Sul tema giustizia trovate anche la vicenda davvero incredibile di Calogero Mannino, ex ministro, ex Democrazia Cristiana, oggi è ancora onorevole dell'UDC. Mannino e l'accusa di mafia, assolto dopo 17 anni, mi hanno tolto un pezzo di vita. È arrivata la sentenza finale della Cassazione con la soluzione, la Cassazione che chiude il caso, ha fatto anche un po' di carcere, 9 mesi a Rebibbia nella sua storia, e Mannino che in un'intervista al Giornale dice: la mia lunga odissea è la summa delle storture della giustizia italiana, non ho molta voglia di parlare, ho uno sdegno enorme per un processo che non si sarebbe mai dovuto fare, ho solo voglia di silenzio. E dice: mi hanno tolto il diritto alla vita per 16 anni, come diceva Edoardo De Filippo, gli esami non finiscono mai. Ecco, in Italia anche i processi non finiscono mai. Come un'altra vicenda giudiziaria che è passata un po' in secondo piano, ma oggi il Messaggero la esamina un po' più a fondo, a pagina 17, io, vittima di Tangentopoli, assolto dopo 18 anni, è l'ex sindaco di Subiaco in provincia di Roma. L'intera giunta, o comunque insomma gran parte della giunta del 92, fu investita da uno scandalo di presunta Tangentopoli. Ora è arrivata la soluzione un po' per tutti, ma la soluzione tra l'altro al primo grado. Incredibile, cioè dopo 18 anni, primo grado di giudizio, con l'ex sindaco che oggi si sfoga, la sentenza è un'espressione di giustizia dopo un tempo estremamente e irragionevolmente lungo, che la magistratura ha finalmente fatto giustizia su un caso dai contorni grotteschi. Parla Giovanni Sbraga, ex sindaco della DC. Lasciamo il tema giustizia, come detto, declinato in varie salse, per andare a vedere come apre il Sole 24 Ore. E beh, Obama tassa le grandi banche. Questo è il titolo di apertura. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, abbiamo sentito anche nel GR, il presidente americano Obama ha formalmente annunciato questa nuova tassa per colpire i 50 maggiori istituti finanziari del paese, da applicare principalmente alle passività di bilancio. L'obiettivo dichiarato è quello di recuperare 117 miliardi di dollari in 12 anni. Obama, i bonus sono osceni, i bonus dei banchieri. Così è esordito nel racconto di Mario Platero, che trovate a pagina 3, il presidente americano, che ha detto: per carità, non voglio punire le banche, voglio prevenire la cultura del rischio degli eccessi, ma, scrive Platero, è chiaro che l'iniziativa di Obama è punitiva. si andrà a colpire soprattutto il passivo, vale a dire il più importante indicatore dei rischi, con una formula complessa, l'obiettivo 117 miliardi, e ha detto il leader della Casa Bianca, rivogliamo i nostri soldi, per esempio quelli investiti dallo Stato per salvare le banche, e li avremo. Dunque un Obama aggressivo, diciamo, con le banche. Banche che ovviamente, scrive il Sole 24 Ore, hanno reagito non gradendo certo questa posizione dell'amministrazione Obama. Ma c'è anche un altro tema che in realtà è un tema discusso da tempo, da anni, in Francia forse la discussione è andata un po' più avanti rispetto a noi. Ora l'ha rilanciata il ministro dell'economia Tremonti. Tremonti, in un convegno all'Aspen, il PIL non fotografa l'Italia, cioè il prodotto interno lordo. Lo troviamo sia in prima pagina che poi all'interno, a pagina 6 del Sole 24 Ore. Lo diceva già Bob Kennedy tanto tempo fa, il PIL non serve a calcolare la felicità di una nazione, anzi misura tutto eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. E così ieri Tremonti ha rilanciato questo tema. Ma davvero è giusto il PIL l'indicatore della felicità? Del benessere di un paese? E ha detto il ministro, se si calcolassero nel PIL il cibo, la cultura, l'ambiente, il clima, l'Italia sarebbe in imbarazzante primo posto. Purtroppo non è così, ha detto il ministro dell'economia. Le stime di un paese si costituiscono soprattutto sul PIL, il prodotto interno di una nazione, una misura giusta, ma elementi come la qualità della vita e la globalizzazione ci invitano a una riflessione. Il tema è lanciato, tanto che oggi Chicco Testa, sulla prima pagina del Riformista, insomma, anche lui dice la sua. In un editoriale dal titolo «Volete la felicità? Cominciate col PIL», scrive Chicco Testa, «Il PIL non misura la felicità, e perché dovrebbe? Ogni volta che si affronta questo tema saltano fuori le citazioni di Bob Kennedy». Eccola lì la citazione. Il PIL sta all'economia di un paese come la benzina sta a un'automobile. Il fatto che il serbatoio sia pieno non ci dice nulla né sulla comodità del viaggio né sui viaggiatori, il loro stato di benessere e la qualità del loro viaggio. Per esempio, fa questo esempio Chicco Testa, è colpa del PIL se io spendo soldi per le sigarette che mi fanno male anziché per migliorare la cultura mia e dei miei figli? Probabilmente faccio male, ma l'errore lo faccio io, non il PIL che si limita a misurare un'attività economica che avviene nell'uno o nell'altro caso. In grande lo stesso quesito, dice Chicco Testa, va fatto ai governi di tutto il mondo. Se spendono soldi per le bombe atomiche anziché per combattere la fame, di chi è la responsabilità? Dei loro, dei governi o del PIL? Insomma, il tema è interessante. Il PIL non dà la felicità, però aiuta. Questo è il titolo del commento di Chicco Testa.